Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Per tutte le stanze della casa di villeggiatura andavano su e giù portieri, giardinieri e domestici che portavano la roba. Gli armadi e i cassettoni erano aperti. Due volte erano corsi alla bottega per lo spago. Il pavimento era cosparso di carta di giornali. Due bauli, le sacche e i plaid legati erano stati portati in anticamera. La carrozza padronale e due d'annolo erano ferme davanti all'ingresso. Anna, cui il lavoro dei bagagli aveva fatto dimenticare l'interna agitazione, in piedi, davanti al tavolo del suo studio, stava riempiendo la sacca da viaggio, quando Agnuska richiamò la sua attenzione sul rumore di una vettura che si avvicinava. Anna diede uno sguardo fuori della finestra e vide presso la scala d'ingresso il corriere di Alexei Alexandrovich che suonava al portone. «Vai a vedere che cosa c'è», disse, e tranquillamente, pronta a tutto, si sedette in poltrone incrociando le mani sulle ginocchia. Il domestico portò una grossa busta con l'indirizzo scritto dalla mano di Alexei Alexandrovich. «Il corriere ha l'ordine di portare la risposta», disse. «Bene», disse essa. Appena il domestico fu uscito, stracciò la busta con mani tremanti. Ne cadde un fascio di banconote non piegate e chiuse in una fascetta incollata. Anna liberò la lettera e si mise a leggerla dalla fine. «Ho fatto i preparativi per il trasferimento, attribuisco importanza alla mia richiesta». Corse con gli occhi più avanti, poi indietro, lesse tutto e poi rilesse ancora una volta tutta la lettera, dal principio. Quando ebbe finito, sentì che aveva freddo e che su di lei si era abbattuta una sventura terribile, quale non si sarebbe mai aspettata. Al mattino era pentita di ciò che aveva detto al marito e desiderava una cosa sola, che quelle parole fossero come non dette. Ed ecco che questa lettera considerava come non dette quelle parole e le dava ciò che lei desiderava. Ma adesso questa lettera le appariva più orribile di qualunque cosa potesse immaginare. Ha ragione, si capisce, lui ha sempre ragione, lui è cristiano, lui è magnanimo. Oh sì, che uomo vile, disgustoso, e questo nessuno all'infuori di me lo capisce e lo capirà, e io non posso spiegarlo. Come mai non ho indovinato ciò che avrebbe fatto? Avrebbe fatto quel che si confà al suo carattere vile. Lui resterà dalla parte della ragione e farà apparire me ancora peggiore, ancora più bassa di quanto già sono. Voi stessa potete prevedere ciò che attende voi e vostro figlio. Questa è la minaccia di togliermi il figlio. E probabilmente, in base alla loro stupida legge, è possibile. Ma forse che io non so perché lui dice questo? Lui non crede neanche nel mio amore per il figlio. Oppure disprezza, e del resto mi ha sempre canzonato per questo, disprezza questo mio sentimento. Ma sa che io non abbandonerò mio figlio. Non posso abbandonare mio figlio, che senza mio figlio per me non può esserci vita nemmeno con colui che amo, ma che, abbandonando il figlio e fuggendo da lui, agirei come la donna più abietta e svergognata. Lui sa questo, e sa che io non avrò la forza di fare una cosa simile. Si sedette alla scrivania, ma invece di scrivere, incrociate le braccia, vi posò la testa e si mise a piangere, singhiozzando e scuotendo tutto il petto come piangono i bambini. Il rumore dei passi del domestico la obbligò a riprendersi, nascondendo il volto finse di scrivere. «Il corriere chiede la risposta», riferì il domestico. «La risposta? Sì, che aspetti, suonerò. Che cosa posso scrivere? Che cosa posso decidere da sola? Che cosa so? Che cosa voglio? Che cosa amo?» Di nuovo sentì che nella sua anima cominciava lo sdoppiamento. Di nuovo si spaventò di questa sensazione e si aggrappò al primo pretesto di attività che le capitò e che poteva distrarla dai pensieri su di sé. «Devo vedere Alexei», così chiamava Vronsky nel pensiero. «Lui solo può dirmi che cosa devo fare. Andrò da pezzi, forse lo vedrò là». Si avvicinò alla scrivania, scrisse al marito: «Ho ricevuto la vostra lettera, Anna», e avendo suonato consegnò la risposta al domestico. Thank you. Il gruppo che doveva riunirsi dalla principessa Preskaya per la partita croquet, a cui Anna era invitata, comprendeva due signore con i loro ammiratori. Queste due signore erano le principali rappresentanti di un nuovo circolo scelto di Pietroburgo che si chiamava, a imitazione dell'imitazione di qualcosa, Les Sept Merveilles du Monde. Tale circolo, di certo elevato, era però assolutamente ostile a quello che Anna frequentava. Anna giunse dalla principessa Tverskaja prima degli altri invitati. Mentre lei entrava, stava entrando anche il domestico di Vronsky, con le fedine pettinate, somigliante a un gentiluomo da camera. Egli si fermò sulla porta e, toltosi il berretto, le cedette il passo. Anna lo riconobbe e soltanto a questo punto si ricordò che Vronsky il giorno prima aveva detto che non sarebbe andato. Probabilmente per questo motivo mandava ora un biglietto. Mentre si toglieva il mantello in anticamera, udì il domestico, che pronunciava persino la R come un gentiluomo da camera, dire «da parte del conte per la principessa» e consegnare il biglietto. Avrebbe voluto domandare dov'era il suo padrone. Avrebbe voluto tornare indietro e mandargli una lettera affinché venisse da lei o andare lei stessa da lui. Ma non si poteva fare né l'una né l'altra né la terza cosa. Già si sentivano i campanelli che annunciavano il suo arrivo e già il domestico della principessa Tverskaya si era messo di fianco presso la porta aperta, aspettando che lei passasse nelle stanze interne. Probabilmente in Anna c'era qualcosa di particolare, perché Betsy lo notò subito. «Ho dormito male», rispose Anna scrutando il domestico che veniva incontro a loro e, secondo le sue considerazioni, portava il biglietto di Vronsky. «Tanto più che non posso rimanere molto tempo da voi. È necessario che vada dalla vecchia Vred. Sono 100 anni che gliel'ho promesso», disse Anna, per la quale la menzogna estranea alla sua natura era diventata non solo semplice e naturale in società, ma procurava perfino piacere. «No, non vi lascerò andare a nessun costo», rispose Betsy scrutando attentamente la faccia di Anna. «Davvero, mi offenderei se non vi volessi bene, come se aveste paura che la mia compagnia possa compromettervi. Per piacere, serviteci il tè nel salottino», disse come sempre strizzando gli occhi nel rivolgersi al domestico. Preso da lui il biglietto, lo lesse. «Alexei ci ha giocato un brutto scherzo», disse in francese. «Scrive che non può venire», soggiunse con un tono così naturale e semplice da parere che mai le fosse potuto venire in mente che Vronsky avesse per Anna altro interesse che quello di un giocatore di croquet. Anna sapeva che Betsy sapeva tutto, ma ascoltandola parlare in sua presenza di Vronsky, per un istante si convinceva sempre che non sapesse niente. «Ah», disse Anna con indifferenza, come fosse poco interessata a ciò, e sorridendo proseguì. «Come può compromettere qualcuno la vostra compagnia?» Questo gioco con le parole, questo occultare un segreto, aveva, come per tutte le donne, un grande fascino per Anna. E non la necessità di occultare, non il fine per cui si occultava, ma il processo in sé dell'occultamento l'appassionava. «Io non posso essere più cattolica del Papa», disse. Anna sentiva che Betsy in parte capiva la sua situazione e stava ideando qualcosa. Erano in un piccolo studio. «Però bisogna scrivere ad Alexei». E Betsy si sedette al tavolo, scrisse alcune righe e mise il biglietto in una busta. «Scrivo che venga a pranzo. Ho una signora a pranzo che resta senza cavaliere. Guardate, è persuasivo. Mi scuso, vi lascio per un momento. Voi, per piacere, sigillate e spedite. Io intanto devo dare disposizioni». Senza esitare un attimo, Anna si sedette al tavolo con la lettera di Betsy e, senza leggere, aggiunse sotto: «Mi è indispensabile vedervi. Venite vicino al giardino della Vred. Sarò là alle 6. Sigillò e Betsy, ritornata, consegnò la lettera in sua presenza. Thank you. Vronsky, nonostante la sua vita mondana apparentemente leggera, era un uomo che odiava il disordine. Per tenere sempre in ordine i propri affari, era solito isolarsi 4 o 5 volte all'anno, più spesso o più di rado, secondo le circostanze. In queste occasioni tirava le somme e faceva il suo bilancio. Chiamava questo la resa dei conti, ovvero faire la lessive. Svegliatosi tardi il giorno dopo le corse, senza radersi né fare il bagno, Vronsky indossò l'uniforme e, disposti sulla tavola conti, lettere e soldi, si mise al lavoro. La prima cosa a cui Vronsky si accinse come la più facile furono gli affari di denaro. Copiato con la sua scrittura minuta su un foglio di carta da lettere tutto quello che doveva, tirò le somme e trovò che era debitore per 17.000 rubli e qualche centinaio, che accantonò per chiarezza. Contati i soldi e il libretto bancario, trovò che gli restavano 1.800 rubli. Sino all'anno nuovo non si prevedevano incassi. Per una persona con 100.000 rubli di reddito, a tanto la gente faceva ammontare il patrimonio di Vronsky, uno scarto come questo non doveva sembrare affatto preoccupante. Ma purtroppo, in realtà, lui era ben lontano dall'avere quei 100.000 rubli. L'immenso patrimonio paterno, che da solo dava sino a 200.000 rubli di reddito annuo, non era stato diviso fra i fratelli. Quando il fratello maggiore si era sposato, avendo un mucchio di debiti, con la principessa Varia Cirkova, figlia di un decabrista senza patrimonio alcuno, a lui Alexei aveva ceduto l'intero reddito dei possedimenti del padre, riservando per sé solamente 25.000 rubli all'anno. Alexei aveva detto allora al fratello che questo denaro gli sarebbe bastato finché non si fosse sposato, cosa che probabilmente non sarebbe accaduta mai. La madre, che aveva un patrimonio personale, oltre ai 25.000 rubli pattuiti, dava annualmente ad Alexei altri 20.000 rubli. Alexei li spendeva tutti. Negli ultimi tempi, però, avendo litigato con lui per la sua relazione e la partenza da Mosca, la madre aveva cessato di mandargli questi soldi. Era per questo che Vronsky, abituato a vivere con 45.000 rubli, avendone ricevuti quell'anno soltanto 25.000, ora si trovava in difficoltà. Una sola cosa era possibile e si doveva fare, e Vronsky vi si risolse senza un istante di esitazione. Prendere dei soldi a prestito da un usuraio, 10.000 rubli, cosa per la quale non vi erano difficoltà, e poi occorreva diminuire in generale le proprie spese e vendere i cavalli da corsa. Infine, tolti dal portafoglio i 3 biglietti di Anna, li rilesse, li bruciò e, ricordando la sua conversazione del giorno prima con lei, si fece pensieroso. La vita di Vronsky era particolarmente felice perché egli aveva un proprio codice di norme che definivano senz'ombra di dubbio ciò che si doveva e ciò che non si doveva fare. Questo codice poneva assai poche condizioni, ma in compenso le norme erano sicure e Vronsky, conformandosi al suo codice, non aveva mai nemmeno un istante di esitazione su ciò che doveva essere fatto. Le norme stabilivano senz'ombra di dubbio che bisognava pagare un baro, ma non obbligavano a pagare un sarto. Che agli uomini non bisognava mentire, ma si poteva con le donne. Che non bisognava ingannare nessuno, ma un marito si poteva ingannare. Che non si potevano perdonare le offese, ma che si poteva offendere, e così via. Tutte queste norme potevano essere irragionevoli, cattive, ma erano sicure. E Vronsky, adempiendole, sentiva di essere tranquillo e di poter andare a testa alta. Solo negli ultimi tempi, a proposito dei suoi rapporti con Anna, Vronsky aveva cominciato a sentire che il suo codice non definiva appieno tutte le circostanze della vita e che per l'avvenire si presentavano difficoltà e dubbi in cui Vronsky non avrebbe più trovato un filo conduttore. Soltanto il giorno prima lei gli aveva annunciato di essere incinta ed egli aveva sentito che questa notizia e quel che lei si aspettava da lui richiedevano qualcosa che non era pienamente definito dal suo codice. Se ho detto di lasciare il marito, questo significa unirsi con me. Ma sono pronto a questo? Come la porterò via, adesso che non ho soldi? Supponiamo che possa provvedere, ma come la porterò via se sono in servizio? Se ho detto questo, devo essere pronto a questo, e per questo bisogna avere soldi e dare le dimissioni. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, hey, I oughta leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. E rifletteva. Il problema se dare o non dare le dimissioni l'aveva condotto ad un altro interesse segreto, noto a lui solo, quasi essenziale anche se nascosto, di tutta la sua vita. L'ambizione era un vecchio sogno della sua infanzia e giovinezza, un sogno che egli non confessava nemmeno a se stesso, ma che era così forte che anche adesso questa passione lottava con il suo amore. I suoi primi passi in società e nel servizio erano stati fortunati, ma 2 anni prima aveva fatto un errore grossolano. Desiderando mostrare la propria indipendenza e andare avanti, aveva rifiutato un posto che gli era stato offerto, nella speranza che questo rifiuto gli conferisse maggior pregio. Risultò invece che era stato troppo audace e venne messo da parte. La sua relazione con la Karenina, che aveva fatto tanto rumore e richiamava l'attenzione generale dandogli nuovo splendore, aveva temporaneamente chetato in lui il tarlo dell'ambizione. Ma da una settimana questo tarlo si era risvegliato con nuova forza. Un suo compagno d'infanzia, dello stesso ambiente, della stessa società e suo compagno al corpo dei paggi, Ser Pucioskoi, con il quale aveva rivaleggiato in classe, in ginnastica, in birbonate e in sogni d'ambizione, era ritornato in quei giorni dall'Asia centrale, dopo aver ricevuto laggiù 2 promozioni e una ricompensa che veniva data di rado a generali così giovani. Dando le dimissioni brucerei le mie navi. Restando in servizio non perdo nulla. Ha detto lei stessa che non vuole cambiare la propria situazione. Io, certo, con il suo amore non posso invidiare Ser Pucioskoi. Si fece la barba, prese un bagno freddo, si vestì e uscì. La baldoria dal comandante del reggimento durò un bel pezzo. Bevvero parecchio. Portarono in trionfo e lanciarono in aria Ser Pucioskoi. Poi portarono in trionfo il comandante del reggimento. Poi, davanti ai cantori, il comandante in persona ballò con Petrichi. Ser Pucioskoi entrò in casa, nel gabinetto, per lavarsi le mani e qui trovò Vronsky. Vronsky si stava buttando addosso dell'acqua. Toltasi l'uniforme estiva, esposto il rosso collo coperto di peli sotto il getto del rubinetto, frizionava testa e collo con le mani. Terminata l'abluzione, Vronsky si sedette vicino a Ser Pucioskoi. Erano tutti e due seduti lì su un divanetto e fra loro cominciò una conversazione assai interessante per entrambi. «Sapevo tutto di te attraverso mia moglie», disse Ser Pucioskoi. «Sono contento che tu l'abbia vista spesso. Anch'io sapevo di te, ma non solo attraverso tua moglie. Sono contentissimo del tuo successo, ma per nulla stupito. Mi aspettavo anche di più. Non dirò che non valga la pena vivere senza di questo, ma sarebbe noioso. Io pensavo lo stesso, ma ecco che vivo e trovo che non vale la pena di vivere soltanto per questo», disse Vronsky. «Ecco che ci siamo», disse ridendo Ser Pucioskoi. «Avevo già cominciato a dire che avevo sentito parlare di te e del tuo rifiuto. Si capisce, io ti ho approvato, ma per tutto c'è un modo. E penso che l'atto in sé sia stato buono, ma che tu non l'abbia fatto come si sarebbe dovuto. Quel che è fatto, e tu sai che io non rinnego mai ciò che ho fatto. e poi mi trovo benissimo. «Veniamo subito!» gridò Vronsky a un ufficiale che si era affacciato nella stanza e li chiamava dal comandante del reggimento. Adesso Vronsky voleva ascoltare sino in fondo e sapere cosa l'altro gli avrebbe detto. «Ed eccoti la mia opinione. Le donne sono la principale pietra d'inciampo nell'attività dell'uomo. È difficile amare una donna e nello stesso tempo concludere qualcosa. Per questo c'è un solo mezzo da amare comodamente, senza ostacoli, il matrimonio. E io ho sentito questo dopo essermi sposato. A un tratto mi si sono liberate le mani. Ma a trascinarsi questo fardò senza il matrimonio, le mani sono così ingombre che non si può fare nulla. Peggio ancora se la donna ha una posizione salda nel mondo. Peggio ancora. Allora non è più come trascinare un fardò con le mani, ma è come strapparlo ad un altro». «Tu non hai mai amato», disse piano Vronsky, guardando dinanzi a sé e pensando ad Anna. «Può darsi, ma ricorda ciò che ti ho detto. E ancora, le donne sono tutte più materiali degli uomini. Dell'amore noi facciamo qualcosa di immenso, mentre loro sono sempre terre a terre». «Subito, subito!» si rivolse ad un domestico che era entrato. Ma il domestico non era venuto a chiamarli di nuovo come pensavano, portava invece un biglietto a Vronsky. «L'ha portato un uomo da parte della principessa Verskaya». Vronsky aprì la lettera, diventò rosso e disse: «M'è venuto mal di testa, vado a casa». Elsa Galbato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @chiocciolarai.it